Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Mattino. Ma se sono soldi a fondo perduto, che interessi? Non ce ne sono di interessi. Sono soldi a fondo perduto, regalati. E allora facciamo il MES, no? Se siete così sicuri. Buongiorno, io credo che il MES sia più una paura. C'è più una paura rispetto al MES fino a se stesso. La paura è il terrore che l'Europa per l'ennesima volta ci mette in difficoltà. Il MES, come viene proposto attualmente, che sembrerebbe così conveniente e spetterebbe all'Italia per 36-37 miliardi, è veramente senza condizionalità? Perché mi sembra di aver capito che il trattato non è stato modificato, quindi sono solo dichiarazioni di volontà. Allora, sull'ultimo punto, no, in realtà è una linea di credito diversa da quella che viene utilizzata normalmente nel suo uso tradizionale, quello del fondo salva stati. E invece risposta al primo ascoltatore, nessuno ha mai detto che si tratta di soldi a fondo perduto. Invece, per quanto riguarda il secondo, la paura che l'Europa intervenga, eccetera, eccetera, visto che questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, in questo martedì 7 luglio alle 7:21 minuti e 30 secondi, iniziamo. E forse possiamo iniziare proprio da chi dice, e guardate, non è male la provocazione di Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, oggi. Vi leggo solo il titolo per darvi l'idea, Elogio delle condizionalità. Oltre il MES c'è di più. I paesi europei che in questi anni hanno fatto proprio il vincolo esterno, che è il vincolo dell'Europa, se la sono cavata bene. Perché l'Italia può uscire dalla crisi abbracciando le splendide raccomandazioni dell'Europa. Eccola la vera semplificazione, scrive Cerasa nel suo editoriale di apertura. Non so quanto provocazione, no? E quanto convinzione, però un po' sottotraccia questo dibattito c'è, che tutto sommato noi le cose da soli non riusciamo a farle e quindi forse qualcuno che ce le imponga serve. Ve la butto là. Le aperture dei quotidiani sono tre quelli che aprono sulla morte di Ennio Morricone, anche se uno di questi in maniera un po' particolare, nel senso che La Stampa fa un'apertura, o meglio, fa una copertina dedicata a Ennio Morricone. Ciao maestro è il titolo, con la grande foto di un murales, di un ritratto fatto dallo street artist Harry Grab sui muri di Trastevere, e due commenti, uno di Nicola Piovani e uno di Jeremy Irons. Ve lo leggerò dopo, quello di Jeremy Irons. Il Messaggero, che apre con "La nostra colonna sonora", è una foto di Morricone che dirige. "Cinema in paradiso" è l'apertura del Manifesto, anche qua una bella foto di Ennio Morricone. Molti quotidiani invece aprono sulle semplificazioni. "Cantieri, il governo tenta lo sblocco", è il titolo del Quotidiano Nazionale. "Il governo, ecco il decreto sblocca paese", il titolo della Repubblica, anche se c'è una grande, bellissima foto di Ennio Morricone con il titolo "Addio maestro". "Appalti e regole, l'ultima battaglia nel governo", è il titolo del Corriere della Sera. "Sembra semplice", è quello di Avvenire. Il Sole 24 Ore e La Stampa, tolta questa copertina dedicata a Ennio Morricone, aprono sugli statali. "Pubblico impiego, la grande fuga, più pensionati che lavoratori attivi", scrive La Stampa. e il Sole 24 Ore statali più in pensione che al lavoro. È impressionante, guardate, già ve lo dicevo prima, il dato sui dipendenti pubblici over 62 sono 540.000. Fanno altre scelte, per esempio La Verità, che dice che al governo sbagliano i conti e spunta un buco da 100 milioni perché il decreto rilancio l'hanno dovuto riportare in commissione alla Camera perché il testo approvato non ha le coperture. Il Giornale apre con la giustizia e con la vicenda di Berlusconi, video verità, il giudice Esposito era ossessionato dal suo arresto, scrive il Giornale riportando appunto quelle testimonianze dei dipendenti di un albergo nel quale Esposito aveva trascorso le vacanze. Libero, nuova ondata di immigrati, Salvini salvaci tu. La pacchia è ricominciata per le ONG con lo sbarco del quale abbiamo raccontato da parte della Ocean Viking. Il Fatto Quotidiano apre sul colpo grosso della lobby dei lidi, la proroga delle concessioni balneari. Anche su questo arriveremo tra poco, è uno degli elementi sui quali vi voglio portare oggi in una rassegna stampa che ci porterà a raccontare di qualche dettaglio in più su Covid e sull'evoluzione della vicenda. Qualcosa su Ennio Morricone, naturalmente, sul decreto appalti e su tutte le questioni politiche che sono sotto traccia in queste ore. Sì, poi naturalmente anche i balneari e la cassa integrazione. Mancano ancora 2 milioni di persone. 2 milioni di persone. E però... voglio iniziare parlando di giustizia su due fronti, di giustizia e di carceri per essere precisi, su due fronti. Il primo è pagina 14 della Stampa, in un pezzo firmato da Gianluigi Nuzzi ci racconta una storia che, ci sono ovviamente, per carità, massimo garantismo, ci sono tutti gli elementi per poter dire che forse dal punto di vista formale la decisione dei giudici è corretta. E però, eccolo qua. Le aveva sparato, un anno dopo è libero. Vivo nel terrore, verrà ad uccidermi. Ed è la storia di Jessica Maurovic, classe 1990, triestina, sopravvissuta alla furia omicida dell'ex compagno. Un anno fa, di fronte alla volontà di separarsi, lui aveva risposto cercando di ucciderla davanti agli occhi sbarrati della figlia piccola. Un avvocato, Riccardo Tarotelli, 42 anni, nato a Tirano, in provincia di Sondrio, incensurato, le aveva sparato alla gola e all'emitorace sinistro, lasciando la donna morente sul letto, per poi rapire la piccola e rifugiarsi in una baita tra le montagne della Valtellina. Lì, dopo 20 minuti di inutile trattativa, si era consegnato ai carabinieri. Era il 26 giugno del 2019, quindi parliamo di un anno fa. Il caso sembrava chiuso. Tarotelli in carcere, in attesa del processo, e Jessica, donna di carattere, un passato di livello da pallavolista, rientrata a Trieste a ricucire le ferite del corpo e del cuore, di anni di vessazioni e di violenze psicologiche, sfociate poi in quella tragedia. Qualche giorno fa che cosa è successo? È successo che il giudice di Sondrio, Antonio De Rosa, ha scarcerato il mancato assassino, valorizzando il fatto che questi, concluse le indagini il 26 giugno, dopo mesi di silenzio e di condotta ineccepibile dietro le sbarre, aveva mostrato resipiscenza e pentimento, collaborando con il pubblico ministero, un cambiamento che ha colpito il PM tanto da dare parere favorevole alla scarcerazione. Così il giudice ha sceso veloce la scala delle misure meno afflittive. Né arresti domiciliari, né obbligo di firma, ma piena libertà, eccetto il fatto che non può andare nella regione nella quale dimora la moglie e l'ex compagna, per meglio dire, che è il Friuli Venezia Giulia, come se ci fossero dei confini nei quali si può controllare che l'uomo non parta dalla Lombardia e arrivi in Friuli Venezia Giulia. Toratelli dunque è un uomo libero, non ha alcun tipo di restrizione. Un anno fa ha sparato alla compagna, la donna adesso ovviamente, come è naturale che sia, ha paura, perché sì, resipiscenza, sì, pentimento, ma chissà se questi sentimenti sono veri oppure no. Toratelli, dopo il carcere, è tornato a girare in auto tra la chiesa e il comune di Berbennero di Valtellina, il paese nel quale vive, non è passato inosservato. I conoscenti e gli amici che vivono ancora nel paese controllano per lei che tutto sia a posto, che evidentemente che l'uomo non se ne vada. E però, dice l'avvocato della donna, le ha chiesto di prestare molta attenzione a chi passa sotto casa, alla presenza frequente delle stesse auto, piccoli accorgimenti che costano poco ma possono essere importanti. E questo il quadro che ci racconta Gianluigi, che ci dipinge Gianluigi Nuzzi, da pagina 14 della Stampa. E a proposito di giustizia e di scarcerazioni, occhio che potrebbe arrivare un altro problema simile a quello che abbiamo vissuto con la scarcerazione dei mafiosi, almeno stando all'allarme che arriva da alcuni sindacati di polizia penitenziaria, ma anche dai giudici. Siamo a pagina 4 del Giornale, perché a quanto pare è arrivata una nuova circolare dal Ministero della Giustizia e dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, insomma sembra un gioco dell'oca che non si chiude mai, datata 30 giugno, firmata dal direttore generale Riccardo Turrini Vita e dal nuovo capo del DAP Bernardo Petralia. Il documento detta le linee guida per gli istituti penitenziari dopo il 30 giugno e allega alla circolare una bozza del protocollo per la prevenzione da Covid. Quindi qual è il punto? Ancora una volta, favorire l'applicazione di misure alternative alla detenzione per tutte le persone che presentano gravi patologie che possono essere significativamente complicate da Covid-19. Come si diceva, il déjà vu, scrive Massimo Malpica a pagina 4 del Giornale, è inevitabile, tanto che, come spiega Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria SPP, grazie alla nuova circolare, nel caso di un colpo di coda del contagio, si può ipotizzare che potranno lasciare le patrie galere tra i 120 e i 160 detenuti pericolosi. Pochi di questi si trovano al 41 bis e la gran parte in alta sicurezza. E dunque il sindacato di polizia penitenziaria esprime preoccupazione, ma non solo quello. Per esempio Catello Maresca, sostituto procuratore di Napoli, in un articolo su un giornale online 2 giorni fa ha lanciato l'allarme: con la nuova circolare, pronto un altro liberi tutti di mafiosi. Questo a pagina 4 del Giornale con Massimo Malpica. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo, ripartiremo proprio da Covid. Ci sono molti elementi interessanti, a partire da quello che toccherà agli docenti, dipendenti della scuola, che stando a quanto racconta il Corriere della Sera dovranno fare tutti il test sierologico e poi eventualmente il tampone prima del rientro, tra poco. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Quindi fino a 150.000 euro chiamata diretta, poi fino alla soglia comunitaria di 5.330.000 euro procedura ristretta con 5 aziende alla grande. Cosa potrà andare mai storto? Buongiorno, sono Fabio. Ennio Morricone, un talento, un genio italiano speciale, insostituibile, da ricordare. Ma i giudici fanno i preti, fanno gli psicologi, ma facessero i giudici? Questo giudice di Sondrio sembra un prete, ego ti absolvo. Vabbè, non è proprio così, È previsto nel diritto penale, è previsto che il giudice possa riconoscere la resipiscenza e il pentimento. Certo, devo dire, colpisce che a un anno di distanza da un tentato omicidio di quel tipo, insomma, questa persona torni quasi completamente libera. Certo, c'è la restrizione di non poter andare in Friuli Venezia Giulia, però, insomma, no? tentato di ammazzare la moglie e lo, l'ex, la, la, la compagna l'ha fatto con una pistola. E non so. Allora, a cosa andare adesso? Direi che possiamo toccare rapidamente il tema Covid, che si compone di questi elementi, direi, oggi. Allora, da una parte ovviamente tutta la vicenda di Zaia e dei 1.000 euro di multa per chi viola l'isolamento fiduciario, ne trovate traccia praticamente su tutti i quotidiani, e della discussione che è aperta sull'ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio per chi rifiuta il ricovero. Dall'altra, come sta andando la scoperta dei nuovi casi in questo periodo. E c'è uno spunto, a mio giudizio, molto interessante, che troviamo sul quotidiano La Repubblica, pagina 18. Ne scrive Elena Dusi. Ed è un elemento che si può prendere dai due lati, cioè la si può vedere positivamente e la si può vedere negativamente. Un contagiato su tre scoperto per caso. È il segno che il virus circola ancora, scrive nel titolo La Repubblica, e però è anche il segno, evidentemente, che circola più di quanto noi non crediamo. Venerdì a Roma un ragazzo è caduto col motorino. Al pronto soccorso l'hanno sottoposto a tampone. Era positivo. 10 casi su 31 nel Lazio quel giorno sono stati trovati così, per caso. Erano persone che dovevano ricoverarsi per malattie diverse dal Covid, ma in questa fase chi entra in ospedale viene testato per non far entrare il virus in corsia, e spesso col referto arriva la sorpresa. Altri si sottopongono a test sierologico e, se ci sono anticorpi, sono avviati al tampone per controllare se l'infezione è ancora in corso. In Lombardia, nei giorni scorsi, 32 positivi su 95 sono emersi così, senza altri indizi. I positivi per caso sono oltre un terzo dei contagi ufficiali. È un dato che stiamo consolidando a livello nazionale, spiega Flavia Riccardo, epidemiologa dell'Istituto Superiore di Sanità, e che può voler dire due cose. Uno, che l'epidemia sta lasciando una scia di positivi asintomatici, tutto sommato poco contagiosi. Due, che il virus circola sotto traccia. Oggi ci concentriamo sui focolai evidenti, ma lui ha ancora un conto in banca ben nascosto, di cui ci accorgiamo solo occasionalmente, ma che in autunno può tornare a far male. Questo è, ci accorgiamo, scrive tra le altre cose, dice tra le altre cose Flavia Riccardo, non è cambiato lui, ma gli infetti, che sono più giovani e più sani. Il riscontro lo abbiamo in Africa e Brasile, dove la mortalità da Covid resta al 3-4% nonostante sistemi sanitari fragili. Ancora su Covid, ancora strani focolai come quello del Bangladesh, dei cittadini bengalesi nel Lazio, a Roma, e siamo a pagina 11 del Messaggero. Qual è il tema qua? È che c'è un focolaio di Covid sorto intorno alla comunità bengalese di Roma, però un po' e parzialmente, come è successo a Mondragone in provincia di Caserta, si fatica ad identificare e a capire. Perché? Perché la comunità ha paura, molti sono irregolari, molti non si vogliono far controllare, quindi si sottraggono al test sanitario disposto tramite una sorta di drive-in dalla stessa regione Lazio. Lo raccontano Laura Bogliolo e Francesco Pacifico. Dalla comunità lamentano scarsa informazione, il timore di ritorsioni di stampo razzistico, ma c'è chi ammette che alcuni bengalesi non regolari hanno paura a presentarsi al drive-in. Nure Alam Siddique, detto Baciu, portavoce dell'associazione Dumkatu, chiede sia residenze protette per i contagiati, sia regole meno stringenti per consentire anche a chi ha il permesso di soggiorno scaduto di fare il tampone. Alcuni partono da Dacca malati e vengono in Italia per farsi curare, raccontano da altre associazioni. Da noi il sistema sanitario è allo sbando e le cure sono a pagamento. Infine, la scuola che riapre, no? A settembre riapre con un ulteriore elemento di difficoltà, che sono i test sierologici che andranno fatti a docenti e bidelli. In 15 giorni, a partire dal 1 settembre, 2 milioni di esami. Lo racconta Fiorenza Sarzanini ed è a pagina 2 del Corriere della Sera. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, gli insegnanti e il personale dovranno effettuare il test sierologico. A 2 settimane dall'avvio delle lezioni, in tutti gli istituti italiani sarà necessario effettuare le analisi e chi risulterà positivo sarà sottoposto al tampone. È l'indicazione che il comitato tecnico scientifico ha consegnato al governo. La scelta finale per far ripartire in sicurezza uno dei settori fondamentali del paese. E anche su questo fronte ovviamente non sarà facile. Una pausa. Questo è un drago più che un dinosauro, veramente la natura ha superato la fantasia umana. Questi ipermemory hanno un'ipermemoria autobiografica e ricordano tutto quello che hanno vissuto durante la loro vita. Si dovrebbe riassumere un attimo che cosa diavolo è l'economia circolare, perché non ce n'è un'idea molto chiara. Prendiamo dalla natura delle componenti vive per dare più funzionalità ai robot. Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza, la trasmissione che vi racconta storie di ricerca, di tecnologia e di innovazione. Ne sentirete delle belle. Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui. Vi aspettiamo dunque da lunedì al venerdì alle 20.50, ovviamente qui, su Radio 24. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. Strade in diretta. Bentrovati, in nostra compagnia è chiusa per un incidente la Firenze-Pisa-Livorno e si verificano code per questo motivo tra San Miniato e Empoli Est in direzione Firenze. A causa di un altro incidente si viaggia in coda sulla tangenziale nord di Torino tra Corso Regina Margherita e Venaria in direzione Milano Aosta e per un altro incidente si viaggia lentamente anche sulla tangenziale di Bologna tra Bologna Quartiere Lame e Castelmaggiore in direzione della 14. Code poi per lavori sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli tra Barberino di Mugello e Calenzano e anche tra l'innesto con la 21 e Piacenza Ovest in direzione del capoluogo lombardo. Code sempre per lavori anche sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e l'innesto. Mattino. Come avrete capito c'è stato un problema tecnico, non saprete mai qual era l'innesto del quale stava parlando la collega. La collega si occupa del traffico. Veniamo alle semplificazioni del governo. Nella nota è stato approvato questo decreto, che è un decreto salvo intese, come ci aveva detto Graziano Del Rio ieri, ospite nostro. Ne parleremo tra l'altro tra poco con Sabino Cassese, ci faremo dire che cosa ne pensa, se queste sono le semplificazioni giuste. Tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore a pagina 2, perché in realtà molte cose erano note. La trattativa con le imprese senza bando di gara fino ai 5 milioni di euro, i poteri eccezionali alle stazioni appaltanti, non ci sono i commissari, quindi non è il modello Genova, cambiano le regole sull'abuso d'ufficio, come sapete un tema che abbiamo affrontato, era uno dei blocchi alla realizzazione delle opere, la paura dei dipendenti pubblici, degli amministratori, di mettere la firma su determinati documenti per la paura poi di ritrovarsi indagati. La responsabilità erariale più ampia per chi non fa, per chi blocca le opere. Quindi molto a che fare con i cantieri, c'è anche una parte dedicata alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione che però si trova nella situazione che viene ben raccontata a pagina 5 sempre del Sole 24 Ore, con questa corsa all'esodo. Nel 2021 ci saranno più pensionati che dipendenti, perché l'invecchiamento e quota 100 svuotano gli uffici. In 2 anni 190.000 lavoratori in meno, i dati sono stati diffusi dal forum, in occasione del forum PA, ne scrive Gianni Trovati, il quale ci racconta tra le altre cose che l'età media nella pubblica amministrazione è sopra i 50 anni e arriva a 54 anni nell'amministrazione centrale, con mezzo milione milioni di persone che ha superato i 62 anni. Qua la digitalizzazione si può fare, ma evidentemente ci vuole un piano di formazione bello tosto, considerato che con gli interventi di Spending Review, racconta sempre Gianni Trovati, il 41 per le spese per formazione sono scese del 41%. Amministrazioni che funzionano, amministrazioni che evidentemente funzionano un po' meno, ce ne sono. L'INPS evidentemente ha ancora qualche problema con la cassa integrazione, ce lo racconta La Repubblica a pagina 10, non so quanti dei nostri ascoltatori tra imprenditori e lavoratori o lavoratori che devono ricevere l'assegno o imprenditori che hanno mandato la richiesta, la domanda per la cassa integrazione non hanno ricevuto risposta, siano in queste condizioni. Fatto sta che ci informa La Repubblica, ci sono ancora 2 milioni di lavoratori che aspettano la cassa integrazione, 2 milioni. La maggioranza di chi è senza cassa integrazione non riceve alcun sostegno da marzo, 1,5 milioni dipende dall'INPS, i restanti 500.000 dal fondo artigiani, che però aspetta di fatto un bonifico dallo Stato. Com'è possibile tutto questo se l'INPS poi vi dice in realtà che mancano solo 17.500 lavoratori? Succede questo, che per esempio oltre 300.000 hanno incassato marzo ma aspettano ancora aprile. E gli SR41, ossia i moduli che servono a richiedere la cassa integrazione, sono stati spediti dalle aziende dopo il 31 maggio. E poi ci sono le domande che mandate, sono 100.000, oltre 100.000, per 1.200.000 lavoratori che risultano né autorizzate, né respinte, né annullate dall'INPS. Sono là ferme e nessuno evidentemente ancora se ne è occupato, e quindi il totale fa 1,5 milioni di lavoratori senza cassa integrazione dall'INPS e 500.000 senza cassa dal fondo artigiani. Questa è la situazione. Abbiamo ancora 3 minuti. Molto rapidamente, il Fatto Quotidiano decide di aprire su questa vicenda dei balneari, ossia il fatto che non ci saranno gare fino al 2033. Il pezzo lo firmano Patrizia De Rubertis e Giacomo Salvini. 3 anni fa ci ha messo lo zampino il maltempo eccezionale, nel 2019 è arrivato l'aiutino dell'ex ministro del turismo, il leghista Gianmarco Centinaio. Quest'anno, causa Covid-19, è stato ancora più facile annacquare Spiaggiopoli. Con una trattativa tra il senatore forzista Maurizio Gasparri e il ministro Dario Franceschini è stato inserito nel calderone del decreto rilancio un emendamento di Deborah Bergamini che proroga le concessioni demaniali marittime, cioè le spiagge, fino al 2033, fino al 2033, quindi per altri 12 anni dovrebbero essere messi a gara sulla base delle norme europee. Fatto Quotidiano ci porta anche qualche esempio interessante. Per il Twiga di Marina di Pietrasanta, dove si spendono 1.000 euro al giorno, il proprietario Flavio Briatore paga 17.000 euro di canone allo Stato contro 4 milioni di fatturato. Al Papete, lo stabilimento romagnolo reso noto da Matteo Salvini, lo scorso anno ricavi a 3,2 milioni, canone a 10.000 euro. Il Lido punta pedale a Santa Margherita Ligure e versa 7.500 euro l'anno. A Forte dei Marmi il Bagno Felice 6.500 euro. Il Luna Rossa di Gaeta 11.800 euro. Il Bagno Azzurro di Rimini 6.700. Questo il quadro con proroga delle concessioni senza gara fino al 2033. Fatemi chiudere con Ennio Morricone. Con Ennio Morricone. Due cose vi voglio segnalare oggi: questa copertina della Stampa. Molto, molto bella la copertina della Stampa, quindi uno apre e poi dentro c'è il giornale vero e proprio, e però c'è questa copertina dedicata ad Ennio Morricone con un pezzo firmato da Jeremy Irons, il quale scrive: accade talvolta che qualcuno muoia lasciando in eredità al mondo un dono incommensurabile. Ennio era una persona così. Non parlerò di tutta la sua opera, ma la sua musica per un film nel quale ho messo l'anima, The Mission, ha elevato il nostro lavoro più di quanto